Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua, ben ritrovati, squadra del basket di Radio 24 al completo. Abbiamo saltato qualche domenica, ma insomma l'attualità politica, e lo potete immaginare bene, lo sapete bene, proprio dai nostri microfoni, richiede e richiedeva e richiederà il giusto approfondimento, il giusto spazio. Ma stasera mezz'ora da passare insieme per approfondire tutti i temi di questa undicesima di Serie A. 349-238-6666 per i vostri sms, Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Undicesima giornata che finora di sorprese non ne ha regalate di particolari, ma la Cimberio Varese, la capolista, riparte e ricomincia a vincere dopo lo stop di Roma. Cimberio Varese che batte la Sutor Montegranaro 106-88, quella Sutor allenata ora dal grande ex Charlie Recalcati. Proprio Roma continua nel suo campionato, che non esito a definire straordinario, vincendo ad Avellino sul campo della Sidigas 94-79. Ottimo anche il torneo dell'Enel Brindisi. A proposito di ex milanesi che magari adesso un sorriso, seppur amaro, lo fanno di fronte alla crisi dell'Armani, è questa la Brindisi di Bucchi, che batte l'orgogliosa Juve Caserta per 82-74. E poi le big, quelle al meno in campo oggi: Sassari, il banco di Sardegna Sassari, che supera con una certa facilità la Trenk Valder Reggio Emilia 105-84, e la che bolletta Cantù, che riscopertasi e meritatamente direi ancora in corsa per un posto tra le top 16 di Eurolega, conquistatasi sul campo questa possibilità, batte intanto con in agilità l'Angelico Biella 85-62. In campo a partire dalle 20, proprio da una mezz'oretta circa, Venezia e Bologna. Mancano 6 minuti e 20 alla fine del secondo quarto e Venezia avanti 17-14. C'è stata anche contestazione da parte degli ultra lagunari al Tagliercio, lo striscione esposto, noi sempre sesto uomo, ma gli altri 5 dove sono? Questo si chiedono gli ultra di fronte a una Venezia che è partita sicuramente col freno a mano tirato, tanto da mettere a rischio la panchina di Mazzon. E poi domani le altre due big, Montepaschi Siena, che ospiterà la Vanoli Cremona, e poi la Scavolini Banca Marche Pesaro, che ospiterà le A7 Emporio Armani Milano. Insomma, un incrocio davvero particolare tra la crisi milanese, la panchina dell'ex milanese Marcoschi che ora a Pesaro, e Scariolo che torna in quella Pesaro da dove è partita la sua grande carriera, in un momento davvero davvero particolare. Allora, classifica che al momento, considerando partite in corso e quelle che si devono disputare, vede Varese in testa con 20 punti, Sassari a quota 18, Siena a 16, Cantù e Roma a 14, a quota 12 troviamo Bologna e Brindisi, e poi a 10 Milano, Reggio Emilia e Caserta, 6 punti per Cremona, Montegranaro, Biella, Venezia, Avellino e Pesaro a 4 punti. E allora partiamo subito con i nostri collegamenti, andiamo a Cantù. Abbiamo detto 85-62 per Cantù, per la che bolletta Cantù sull'Angelico Biella. Roberto Nardella, a vedere il punteggio, tutto facile per i canturini, è stato proprio così? Buonasera Roberto. Buonasera a tutti qui dal Paladesio. Proprio facile, ma non troppo, per Cantù, che è riuscita con un break di 32-11 e soprattutto con 6 tiri dall'arco dei 6,75 insaccati nel quarto periodo a staccare Biella, che era rimasta incollata alla partita. Cantù aveva iniziato bene con 6 punti in fila di Tavo per il 6-0 iniziale, poi ha sempre condotto la gara in un paio di occasioni, 22-22 sul 51-51. Biella si era avvicinata, poi però appunto con la pioggia di triplo del quarto periodo Cantù è riuscita a portare a casa una partita importantissima, soprattutto per il morale. Non me ne vogliono eventuali amici di Biella, però in questo momento credo che tutta l'attenzione, come dicevate anche voi da studio, da parte di Cantù sia alla gara di Eurolega di giovedì contro il Fenerbahce, che potrà o meno dare la qualificazione alle top 16 a Cantù. Proprio in tal senso, forse la notizia migliore di questa serata del Paladesio per i padroni di casa è stata data dal rientro in campo di Pietro Radori. Il coach Trinchieri gli ha concesso 12 minuti, una prova ovviamente con il freno a mano tirato per lui, fischiato dai suoi ex tifosi di Biella, tra le altre cose. Diceva una prova con freno a mano tirato per lui, però credo sia anche normale, visto il rientro recente dall'infortunio, poi presumibilmente con qualche allenamento in più potrà tornare utile a Trinchieri giovedì. Assolutamente sì, Roberto, vedo che è in una fase sicuramente ascendente della sua parabola stagionale Martin Leunen, no? Che più di altri ha fatto fatica a recuperare il suo ruolo centrale nella nuova Cantù di quest'anno disegnata da Trinchieri. Ebbene, per Leunen vedo 18 punti in 31 minuti, 5 su 5 da 2, 2 su 2 da 3, 2 su 4 liberi, 3 rimbalzi, 5 assist, una persa, una recuperata, 25 di valutazione. Insomma, l'uomo delle missioni speciali sta tornando e al momento giusto, no? I dati li hai già enunciati tu e direi che dicono molto della partita di Leon. Poi aggiungo anche il fatto che proprio due canestri dell'americano, il 53-51 per chiudere il terzo periodo e poi il 60-53 in apertura di quarto, hanno dato il primo break importante alla partita. Poi appunto con le triple, due fondamentali di Capitan Mazzarino più avanti nel quarto periodo, al 38esimo minuto circa, hanno poi chiuso i giochi. E sicuramente un Leunen così può far ingolosire sia i tifosi di Cantù sia soprattutto Trinchieri, che ha bisogno di una prova da 150% da parte di tutti i suoi giocatori, visto che, dicevamo prima, è ritornato alla Dori, però Cantù, scusatemi, non è propriamente al 100% per quello che riguardano i suoi giocatori. Ha ancora qualche acciaccato il numero di Gente Smith, presumibilmente questa settimana si potrebbe arrivare ad un playmaker che dovrebbe fare da backup di Tabu, se ne saprà di più magari nei prossimi giorni. Fatto sta, appunto, tornando al discorso di Leunen, che la sua partita è stata sicuramente la migliore prestazione da parte di un giocatore di Cantù. I punti li hai già enunciati tu. Dall'altra parte, per Biella invece una mini crisi, forse anche qualcosa di più, fischiata comunque anche da un gruppo di suoi tifosi. Non era certa la partita più facile. Roberto, vedo nel tabellino i 21 punti e 7 rimbalzi di Mavunga sotto canestro, da lì forse si potrà ripartire. Allora, grazie intanto a Roberto Nardella da Cantù, spostiamoci ad Avellino per commentare questo successo di Roma 79-94. Carmelo Prestisimone, raccontaci un po' la partita, anche grazie al tuo ospite, ben trovato Carmelo. Sì Dario, buonasera, ben trovati da Avellino. Bel colpo, bel successo della CEA Roma, che batte la Sidigas Avellino qui al Pala del Mauro 94-79, una partita che Roma ha controllato decisamente nel migliore dei modi per gran parte appunto della gara. Noi siamo con un ospite prestigioso, Gigi Datome, che è qui con me, che è stato il fattore, il vero fattore, bene, di questa partita, perché Avellino non ha dimostrato di avere un uomo in grado di marcare Gigi. Gigi, chiedo subito appunto quando avete vinto la partita. Abbiamo vinto quando, senza farci influenzare dal grandissimo approccio di Avellino, che si è portato subito 10-0, abbiamo continuato a fare la nostra partita e anche quando siamo andati più 10 continuavamo a fare le nostre cose. Siamo una squadra che si è visto che in trasferta riusciamo a fare la nostra partita, e questa è una cosa non da poco. Abbiamo vinto 4 trasferte su 6, se non mi sbaglio, quindi una squadra che ha carattere, giovane sicuramente, quindi ancora facciamo tanti errori, però abbiamo dimostrato un grande potenziale e questa vittoria è veramente importante per noi. Gli obiettivi di Roma a questo punto non vi potete più nascondere, insomma, non puntate sicuramente più alla salvezza, o forse non ci avete mai puntato? No, sicuramente siamo partiti dalla salvezza e ci stiamo rendendo conto che meritiamo qualcosa di più. Soltanto il lavoro, soltanto la continuità di risultato potrà darci qualcosa di più, però in questi momenti della nostra pallacanestro dobbiamo sicuramente garantire un altro anno di Serie A a Roma, però adesso la Coppa Italia è lì a una vittoria, penso, matematicamente, e quindi sarebbe sicuramente un piccolo grande risultato per noi. Luigi, in questo momento tu sei tra i migliori giocatori italiani, ecco, della Lega. Ti faccio una domanda un po' particolare: all'NBA ci pensi? Ci penserò quando ci penso anche loro, a me adesso non c'è nessun contatto, quindi sicuramente sotto i piedi per terra, guardo la mia realtà, guardo Roma, e non mi sembra avere, dopo anni insomma, di delusioni sportive, di fare un anno divertente, e che la gente stia tornando a palazzetto ed esca a palazzetto felice di aver visto questa squadra. Complimenti Gigi, ti ringrazio. Dario, a te, se non hai domande, insomma, dimmi tu. No, beh, assolutamente bella questa domanda, perché da Dome nell'NBA ci piacerebbe, anche se poi al Pala Tiziano già il suo figurone lo sta facendo. Ti chiedo, Carmelo, invece di parlare un attimo di Avellino, perché oggi era comunque una giornata importante, perché finalmente dopo tante giornate andava ad esordire Hardy col passaporto congolese, e poi grande cavallo di ritorno anche Takan Din, che torna a rimpolpare il roster di Tucci. Ecco, la partita di questi due protagonisti attesi, anche se poi nel tabellino svettano soprattutto i 21 punti di Shakur. Esatto, Dario, hanno fatto il loro esordio sia Takan Din che Dwight Hardy, che finalmente è stato tesserato. Lui, che era congolese, ha avuto difficoltà burocratiche proprio per essere tesserato ad Avellino, non sono stati sicuramente convincenti nella loro prestazione. Si vede che si devono ancora collaudare appunto nei meccanismi di gioco di Gianluca Tucci. Din ha iniziato benino, poi pian piano si è spento. Invece Hardy ha fatto degli errori proprio nella gestione, nel playmaking di Avellino, mentre molto bene, lo dicevi tu, Shakur, che ha realizzato 21 punti, 7 su 11 da 2, 1 su 4 da 3, 11 rimbalzi, di cui 7 offensivi, mentre invece malissimo si continuano a vedere le performance negative di Ibi, il lungo di colore di Avellino, che potrebbe anche essere tagliato. Insomma, quindi si parla di un taglio, si potrebbe arrivare, te lo dico subito, Ubalek, se Napoli non dovesse essere riammessa in Lega 2 mercoledì. Molto probabilmente c'è la sentenza al TNAS per conoscere il destino del nuovo Napoli Basket. Ecco, allora sicuramente andremo a risentirci per mercoledì, perché sarebbe ora che questa telenovela trovasse fine. Allora, grazie a Carmelo Presti Simone da Avellino. Ci fermiamo un attimo, c'è già Stefano Valenti che fra poco ci racconterà Sassari Reggio Emilia, con cui chiacchiereremo piacevolmente nella seconda parte. Ora però gli aggiornamenti dalle strade e dalle autostrade. Eccoci qua ancora insieme. Allora, fra pochissimo Stefano Valenti con Sassari Reggio Emilia. Intanto i risultati della Lega 2, decima giornata: Forlì Capodorlando 71-76, Imola Brescia 67-60, 96-82 tra Pistoia e Trento, Scafati Casale Monferrato 86-80, Verona Ferentino 79-60, Veroli Bologna 71-81, Barcellona Iesi 92-75, riposava Trieste in attesa, poi, come ci raccontava Carmelo Presti Simone, di conoscere il futuro definitivo a questo punto di Napoli. Stefano Valenti, ben trovato. Allora, Sassari batte Reggio Emilia, direi che la corsa di vertice dei sardi non accenna a rallentare, no? Per meriti conclamati e riconosciuti dei ragazzi di Sacchetti e del loro coach. Ben trovato, Stefano. Buonasera, beh, è stata una prestazione offensiva di grandissima qualità. Raramente ho visto una precisione al tiro a questi livelli, serenità soprattutto nelle scelte, che poi è un fattore fondamentale nella realizzazione stessa del canestro. Nel solo secondo quarto Sassari ha avuto 6 su 7 da 2 e 7 su 9 da 3. Ha chiuso a più 21 il secondo quarto, che poi è lo stesso margine che ha mantenuto fino alla fine, mandando in doppia cifra un po' tutti. Va anche detto che, nonostante il margine subito molto ampio, Sacchetti, rispettando la sua filosofia di base, non è che ha usato clamorosamente i giocatori della panchina. Lui predica le logiche e le responsabilità dei giocatori del quintetto. I giocatori della panchina hanno un altro ruolo, e anche se Sassari si è rimesso molto bene in carreggiata in Coppa e dà la possibilità di superare il primo turno, nonostante il doppio impegno, insomma, come dire, lo spettacolo è andato avanti con i grandi protagonisti, quindi con i 23 punti di Isley, 9 su 9 al tiro, i 21 di Drake Dinner, i 18 di Gnieschi, molto bene anche lui stasera. Reggio Emilia è in un momento di flessione, 3 sconfitte consecutive, non aveva Greg Brunner, migliore almazzista del campionato, per altri appendicite, però è stata subito travolta, diciamo, da quest'onda bianco-blu di Sassari, che si conferma una squadra che, ripeto, indipendentemente dalle vittorie e dalla classifica che ne consegue, è una squadra bella da vedere giocare, perché ha una sua fisionomia di gioco ben definita e prova sempre a non metterla sul campo. E poi ci fa divertire parecchio, il che non guasta, anzi. Tra l'altro, intanto è finito 26-25 il primo tempo tra Venezia e Bologna, l'intervallo lungo. Beh, Stefano, argomento del giorno, di questi giorni, la crisi di Milano. Già ne abbiamo parlato con Luca Chiabotti e coach Peterson durante A Tempo di Sport, ma mi interessa parecchio avere il tuo punto di vista. Domani si gioca a Pesaro in una partita dai 1000 intrecci. Come ne può uscire questa Milano da questa situazione? Pronto Stefano? Niente da fare, Stefano Valenti è caduto. Beh, allora domanda che giro inevitabilmente al professor Flavio Tranquillo, che nel frattempo ci ha raggiunto. Non è che hai tolto la sedia a Stefano Valenti, Flavio, eh? No, non mi permetterei, mai. Benissimo, allora possiamo continuare amici come prima. Scherzi a parte, appunto, ci troviamo di fronte a uno snodo cruciale per Milano, vero pure che chiaramente siamo in una fase della stagione in cui i verdetti sono lontani, anche se quello di Eurolega ed è negativo è particolarmente vicino, ma come se ne esce, Flavio? Come ne potrebbe uscire Milano, perché? Ma la risposta banale è vincendo, ma a parte gli scherzi, credo che abbiano deciso di uscirne cambiando la squadra. Non conosco i dettagli, ma mi sembra di capire che quella è la direzione in cui stanno andando. Il fatto è che penso che non siano cambiamenti di quelli che cambiano in maniera, come dire, epocale il senso delle cose, e quindi è più probabile che debbano uscirne trovando dentro di loro le risposte. Certo, diciamo, non è che arriva Diamantidis, ecco, per dire. Ma al di là di chi arriva, non è che cambino 3 giocatori e ribaltino tutto, anche perché non c'è Diamantidis, ma non c'è neanche uno un filo peggio di Diamantidis. I giocatori super sono già accasati. Certo, devo dire anche che una delle grandi difficoltà anche per il pubblico è capire, e anche per lo staff tecnico, capire che chi è un buon giocatore a livello di settima, ottava, nona scelta nelle big d'Europa, fa una gran fatica poi a ritrovarsi leader dei primi 5 di una squadra che pure ha un budget interessante come Milano, no? E mi riferisco ai Fotsis, ai Burussis, agli Hendrix. È molto difficile da quel punto di vista fare quel passo ulteriore in una carriera, no? Sì, però alzi la mano, e io la tengo rigorosamente abbassata, chi non avrebbe creduto che Nicolas e Fotsis sarebbero stati dei giocatori straordinari per una squadra di sistema. Dovevano esserlo e non lo sono stati. L'analisi del perché mi sfugge, anche perché io non li vedo tutti i giorni, li vedo solo giocare. Posso fare delle considerazioni su quello che succede in campo, ma ci deve essere anche qualche cos'altro. Adesso il problema però è relativo a vincere il campionato italiano, che è diverso da provare a fare una grande Eurolega, molto diverso. Ah sì, è molto diverso, ha dei tempi, una tempistica diversa, e il campionato tutto sommato è un livello diverso. Certo, quel roster a livello di campionato registrato nella testa è davvero interessante, no? Certo, non ha il problema di non avere sufficiente talento sulla carta per vincere il campionato italiano. Ecco, apposta, ecco. Infatti non ne parliamo neppure. Senti, a proposito di ex milanesi, guardando un po' il basso, ma neanche troppo, della classifica, mi piace molto questo campionato che sta facendo Brindisi, la Brindisi di Bucchi, eh? Decisamente, direi che sono stati bravi a uscire dai risultati negativi dell'inizio, però questa è una squadra che aveva dentro qualcosa, si vedeva anche in precampionato, si è visto quando sono venuti a Cantù, sono andati di 15, poi hanno perso la partita, ma si vedeva che aveva dentro qualcosa, una squadra brillante, una squadra fisica, adatta a giocare il tipo di pallacanestro che in questo momento si gioca in Italia. E attenzione, perché come a Brindisi, quando perdi ti avviti, quando vinci poi decolli. devo dire che Sassari e Varese ci stanno restituendo anche il piacere di una pallacanestro offensiva ben organizzata, ma almeno leggera, no? Quella pallacanestro che ha quella leggerezza che magari Milano vorrebbe avere, perché vedo oggi il tabellino di Varese: 106 punti contro Montegranaro, che pure ne fa 88, 16 per Sakota, 14 per Bank, 18 per Mike Green, 16 per Ebiere, Polonara e 14 per Dustin. Beh, insomma, deve essere bello andare a vedere basket a Masnago. Sì, sicuramente è bello, sicuramente giocano una pallacanestro che non banalizzerei, come ancor meno banalizzerei quella di Sassari dicendo tirano tutti, si divertono tutti e fan canestro. È una parte, ma è una parte che non nasce sotto i cavoli. Io ero ad Esio, ho visto giocare Cantù. Secondo me Cantù è una squadra che gioca fino alla fine della stagione per provare a vincere, e quindi secondo me sarà una stagione molto più interessante di quello che avremmo pensato. Assolutamente sì, anche perché si è conquistata sul parquet, punto dopo punto, scivolata dopo scivolata, il diritto di giocarsi fino all'ultimo le proprie chance in Eurolega. 30 secondi Flavio da regalare a Marco Belinelli, che sembra entrato nel mood giusto con la maglia di Chicago Bulls. Beh, Belinelli ha dimostrato una cosa che secondo me l'ha già dimostrato l'anno scorso, che quando ha tanti minuti riesce a stare in campo. Per certi versi è più facile stare in campo a Chicago, dove la squadra comunque ha un impianto molto più solido, che a New Orleans. Eh sì. Deve essere conscio che quando tornerà Rose e quando ci sarà Hamilton non avrà quei minuti. Però deve usare la credibilità che sta acquisendo in questi minuti per trasferirla, e per lui non è facile, ma deve riuscire a farlo nei minuti che avrà a disposizione, quali che essi siano. Gli auguro davvero di riuscire a farlo, perché se ci riesce e Rose torna il vero Rose, questi allora giocano per vincere. Ci divertiamo tutti. Pochi secondi invece per noi, solo per ringraziare Roberto Scaltritti in regia e Giorgio De Luca in redazione. Io rimango a farvi compagnia per raccontarvi Inter Napoli.